Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Effetto mondo. And we can trust Joe Biden to name Supreme Court justices who follow in the footsteps of Ruth Bader Ginsburg. Judges who understand that justice and equality aren't theoretical ideas. La voce energica di Michelle Obama. Sì, ha fatto un videomessaggio ieri di circa 20 minuti e invito davvero a ascoltarlo. Parla, come avete sentito, molto lentamente, scandisce le parole in primissimo piano, è molto chiaro, molto appassionato, come potete immaginare, invita a votare per Joe Biden, che è stato al fianco del marito per tanto tempo, e però spiega, cioè dà parecchie, insomma spiega le sue ragioni. In questo passaggio parla della prossima nomina è ancora in forse, ma sappiamo che Donald Trump ha scelto una giudice molto conservatrice per prendere il posto di Ruth Bader Ginsburg. In onore di Ruth, io oggi ho messo un collare come quelli che metteva Ruth Bader Ginsburg, no, questa giudice che era molto famosa, è morta a 87 anni, per aver sempre riconosciuto anche dai suoi rivali, diciamo di orientamento, una grandissima conoscenza del diritto e un grandissimo rispetto della Costituzione americana, che è quello che Michelle Obama dice. Vi assicuro che Joe Biden sceglierebbe dei giudici il più imparziali possibile, e questo, vabbè, è una delle ragioni per le quali secondo lei bisogna votare Joe Biden. Allora c'è un po' di movimento, c'è Fauci che ha detto il focolaio si poteva evitare, quello della Casa Bianca, poi c'è questa polemica grossa per gli aiuti all'economia. Sì, io sentivo oggi, devo dire questa volta un po' di parte, perché erano i commenti su CNN e NBC che dicevano sembra quasi che il presidente Trump delle due l'una: o veramente stia attuando un ricatto, perché il dire il pacchetto di aiuti estremamente urgente, perché negli Stati Uniti continuano a crescere i dati sulla disoccupazione, e se guardate i servizi o ci fate una ricerca sulle food banks, cioè quei luoghi dove si possono andare a prendere delle scatole con cibi di prima necessità, sono impressionanti le code, quindi la situazione è veramente difficile, e Donald Trump ha detto ai suoi repubblicani di fermare qualsiasi tipo di colloquio per arrivare a un accordo con con i democratici per questo pacchetto. Quindi delle due l'una: o si tratta di un ricatto, perché lui ha detto chiaramente, ne riparliamo dopo le elezioni, guarda caso però ha detto esattamente il contrario per quanto riguarda la nomina del giudice alla Corte Suprema, cioè il giudice subito ma gli aiuti economici dopo. Oppure, e questo è naturalmente quasi paradossale, sta quasi cercando di perdere, perché adesso fare appello in questo scarso mese che resta agli americani indecisi con questa mossa così palese di fermare una misura che in realtà è molto urgente. Tra l'altro negli Stati Uniti non è come succede qui da noi: una volta che si firma il pacchetto, gli assegni poi o in qualsiasi altro partono, arrivano in fretta, quindi non è neanche da dire vabbè, ma tanto anche se passasse oggi ci vorrebbe dei mesi come accade qui da noi. No. La cosa interessante è le foto che hanno scelto sia Wall Street Journal che Financial Times, che sono quelle delle proteste in Kirghizistan, dove si è votato anche qui stesso copione della Bielorussia. La vittoria è andata a un governo, diciamo, pro-Russia, pro-Putin, e anche in questo caso, un po' come accadeva in Bielorussia, grandi proteste. Quindi credo, questo è anche per dire perché il Wall Street Journal dà così tanta enfasi, perché forse la Russia in questa tornata sarà più impegnata a risolvere i crescenti problemi di Putin all'interno dell'ex Unione Sovietica che non a magari tentare di influenzare le elezioni americane. Che è un'altra storia. Hai ancora delle voci da farci sentire, perché, Giulia? Perché, come sapete, la nostra amica, tra virgolette, Kayleigh McEnany, che era la portavoce della Casa Bianca, l'ufficio stampa della Casa Bianca, potremmo dire, è in quarantena perché è risultata positiva, ma ieri è stata intervistata da Fox News e le hanno chiesto, proprio in un'intervista particolarmente incalzante, primo se alla luce di quello che è successo rifarebbe quell'evento dove tutti praticamente si sono contagiati, dove è stata nominata la giudice. Ma quella sabato nel giardino? Scorso, esatto. Il famoso giardino. E lei lì è stata molto reticente, poi le ha proprio chiesto, e sentiamo adesso la domanda, ma che mossa è questa di bloccare gli aiuti? Non rischia il presidente Trump di passare appunto come colui che mette in difficoltà gli americani? Sentiamo la voce di Kaylee. Why would the president do that at this point with 4 weeks to go? So everything the president does, he's a great negotiator, is pursuant to a larger goal of his. He will work to get relief for the American people. Che ha detto? Dice, ma perché? Perché farlo? Le chiede la giornalista. Lei dice, no, tutto quello che il presidente fa, e qui c'è questo, emerge proprio questo culto che hanno i collaboratori di Trump per Trump, tutto quello che il presidente fa è un suo larger goal, cioè un obiettivo ancora più grande, come se noi non potessimo capirlo, ma vi assicuro che farà qualsiasi cosa nell'interesse degli americani. Si è un po' arrampicata sugli specchi, direi. Le strategie, ha visto cose che voi umani non sapete. Poi senti, comunque sulle prime pagine, Wall Street Journal compreso, c'è naturalmente la scomparsa di Eddie Van Halen, che insomma cofondatore dei Van Halen, per me che sono del 69, insomma è stato un gruppo che mi ricorda molto la mia adolescenza. Chiedo quindi proprio venia per aver detto proprio Van Halen all'italiana, bruttissimo, poi sentito la tua pronuncia corretta, scusate. Senti, no, per una nota di leggerezza volevo segnalarti, visto che comunque stasera poi c'è il dibattito tra i vice. Esatto. C'è un sabato sera, Saturday Night Live, è andata in onda una parodia del dibattito presidenziale. Voglio precisarlo, non è assolutamente una presa in giro che riguarda l'essere positivo di Donald Trump, è una presa in giro di entrambi i candidati per come hanno condotto il dibattito. Alec Baldwin impersonava Donald Trump e Jim Carrey, fantastico, impersonava Joe Biden. E qui sentiamo invece la persona che impersona Kamala, che a un certo punto esce, cosa che nella realtà naturalmente non è successa, e dice adesso la smettete però di litigare, ma sentiamola. Right now, all right? You look at me, Donald. You do not treat my Joe like that, all right? He's a nice boy. Come on, I got this. Joe, let Mamala go to work. Tu ridi, ma devi un attimino aiutarci. Lei esce e dice, Donald, però adesso la smetti di trattare così male Joe, perché Joe è una brava persona. E Joe Biden cerca di dire, Kamala, ma ce la posso fare da sola a difendermi? E lei dice, Joe, stai zitto, Mamala fa il lavoro sporco, quindi un gioco di parole con Kamala Mamala. Per dire che, insomma, in questo, secondo me, gli americani sono fantastici. Cioè, sanno fare film saggi, in questo caso anche prendersi in giro anche su temi, e lo fanno, devo dire, sempre nel modo giusto. Ai massimi livelli, sì, Alec Baldwin e Jim Carrey, pensa un po' che scene, bello. Andiamo con gli ultimi due minuti che abbiamo in Europa, vediamo un po' i titoli intanto, Giulia. Naturalmente nel Regno Unito, grande giustamente orgoglio per il Nobel a Roger Penrose, che è il fisico teorico che ha preso il premio Nobel, e poi ancora tantissime discussioni sul Covid, perché per esempio c'è il problema delle università, che sta di nuovo ricorrendo massicciamente alla didattica a distanza, con tutti i problemi che sappiamo, e anche il tema della copertura delle elezioni, perché per Johnson è molto importante, sono molto importanti le elezioni americane. Con Trump ha un rapporto privilegiato, sappiamo che lo scenario post Brexit sarà difficile per il Regno Unito, avere un avversario negli Stati Uniti, e Joe Biden non è proprio in linea con Boris Johnson, sarebbe più difficile, quindi molta attenzione anche nel Regno Unito sulle elezioni americane. Stavo guardando che è arrivata l'approvazione in Consiglio dei Ministri della proroga dello stato d'emergenza al 31 gennaio e anche l'obbligo di mascherina per ora fino al 15 ottobre. Staremo a vedere poi nelle prossime edizioni. Giulia, ancora qualche secondo? Sì, senti, in Francia invece ho notato, noi giustamente si parla di seconda ola, la seconda ondata dei contagi in Spagna, dove il governo Sanchez ha ulteriormente aumentato la spesa pubblica, del resto come auspicava proprio ieri il Fondo Monetario Internazionale, e invece in Francia parlano di una deuxième vague, ma in questo caso una seconda onda, non di Covid ma di telelavoro, perché effettivamente se ci saranno misure, ma del resto sta succedendo anche in Italia, ovviamente anche il telelavoro, che non necessariamente è smart, lo ripeto sempre, ma è appunto solo lavoro a distanza, ovviamente tornerà a essere utilizzato in maniera ancora più importante. Comunque deuxième vague. Bello, è un'altra cosa. Grazie Giulia, appuntamento con te domani. Per la puntata di oggi è tutto, con Paolo Corleone in regia, Jacopo De Franchi in redazione, noi ci risentiamo tra poco per l'aggiornamento delle 14. Ciao, buona giornata.